Glee Week di Emily Carr. Edizione originale disponibile su Project Gutenberg Australia. Traduzione per la Scuola delle Donne di Francesca Grandi. Revisione testo Devana, figlia di Liliana. Presentazione di Mara, figlia di Adriana. Le missionarie mi aspettavano. Hanno mandato un enorme irlandese su una minuscola canoa ad incontrare il piroscafo. Arrivammo al molo di Ucloelet poco dopo l'alba. Tutto era grande, freddo e strano per me. Una studentessa di 15 anni. Ero l'unica anima sul molo. L'irlandese non ebbe problemi a capire chi fossi. C'era la bassa marea e quindi c'era una lunga scala con schifosi pioli viscidi da scendere per raggiungere la canoa. La risata forte dell'uomo e l'inclinazione della canoa erano ancora più spaventose della scala. La pagaia, nelle sue grandi braccia, spingeva la canoa tra le onde. Arrivamo a Toxis, che era il nome indiano della casa della missione. Si trovava appena sopra l'alta marea. Davanti c'era il mare, dietro la foresta. La casa in legno, non verniciata. Non c'erano tende né persiane. Mentre ci avvicinavamo remando, sembrava che fosse imbottita di nero. Quando la canoa si bloccò nel fango, il grande irlandese mi prese in braccio e mi posò sulla soglia di casa. Le missionarie erano alla porta. Gli odori di pesce in cottura li precedettero. A Ucloelet si viveva di pesce. Entrambe le missionarie erano dignitose, ma la più anziana aveva più dignità, mentre la più giovane era pignola. Avevano visi lunghi e pallidi, i loro capelli erano lisciati dalla fronte fino a formare delle crocchie sulla collottola. Avevano lunghi nasi che reggevano gli occhiali, labbra sottili, occhi miti, e indossavano abiti che cadevano dritti e scuri, abbottonati fino al mento. In cucina c'erano solo due pezzi di tutto, quindi dovevo sedermi su una scatola, bere da una ciotola e mangiare il cibo da una tortiera di latta. Dopo la colazione, una lunga preghiera presbiteriana, e fuori dalla finestra della cucina, a pochi metri di distanza, ai margini del bosco, si ergeva un grande pino balsamico. Era molto alto e dritto. Il chiacchiericcio delle missionarie, che alla fine della preghiera elencavano le loro colpe, riportò la mia attenzione dal pino al Padre nostro, appena in tempo per un Amen. Ci alzammo dalle ginocchia e trovammo la casa piena di indiani. Erano venuti a guardarmi. Mi sentivo così giovane e inesperta in piedi davanti agli indiani e alle due gravi missionarie. Il capo, il vecchio hippie, era ritenuto un lettore di volti. Si era appollaiato in cima all'armadietto delle medicine delle missionarie. I suoi pugni marroni ne stringevano il bordo, i gomiti tesi, le spalle ingobbite. Le sue scarpe sgualcite pendevano libere come se penzolassero da corde e non avessero piedi. Lo sguardo fisso dei suoi occhi mi scrutava da parte a parte. All'improvviso li sollevò verso la finestra, sopra di me. Pronunciò alcune frasi in Chinook. Saltò giù dalla credenza e tornò a piedi verso il villaggio. Avevo quasi paura di chiedere alla missionaria: che cosa ha detto? Non molto, solo che non hai paura, che non sei rigida e che sai ridere. Toxis si trovava su una lunga lingua di sabbia, ma la spiaggia del villaggio indiano era corta e si addentrava nel litorale. Ai due estremi si trovavano delle punte rocciose che si protendevano verso il mare. Toxis e il villaggio erano distanti un miglio. La casa della scuola si trovava a metà strada tra le due e come loro era stretta tra il mare e la foresta. La domenica la scuola si definiva casa della chiesa e aveva l'aspetto più presbiteriano possibile, date le circostanze. Aveva un tetto appuntito, due finestre per lato, una porta davanti e una legnaia di dietro. L'attrezzatura scolastica consisteva in un mappamondo, una lavagna, una stufa, banchi e panche rozze e su una cassetta dietro la porta il secchio dell'acqua potabile e una lattina. La missionaria giovane andava per prima a scuola e accendeva il fuoco. Se la marea era alta, doveva percorrere il sentiero ai margini della foresta. Era pieno di buchi dove l'alta marea aveva scalzato le radici dei grandi alberi. Enormi ceppi rovesciati richiedevano deviazioni attraverso cespugli di salal a foglie dure e paludi di cavolo nero. La missionaria giovane si muoveva a tentoni, odiava mettere i piedi su un terreno che non riusciva a vedere perché era così coperto di verde che cresceva. Fu felice quando uscì dalla foresta buia e vide la casa della scuola con le sue pareti di legno grezzo. La missionaria anziana non aveva nervi saldi e aveva un passo lungo e lento. Quando arrivò sul sentiero, soffiò nel corno di mucca. Aveva un fiato incredibile, i suoi soffi erano stupefacenti, ma non riuscirono a chiamare i bambini a scuola perché nessun insegnamento aveva mai suggerito loro il tempo e l'obbligo prima di allora. Allora la missionaria anziana andò al villaggio e chiamò direttamente i suoi studenti dalle capanne. La prima mattina a Ugluelette la scuola era piena di gente perché i visitatori come me erano rari. Dopo il Padre Nostro, le missionarie duettarono un inno mentre i bambini mi fissavano. Quando la missionaria scrisse A, B, C sulla lavagna, i bambini cominciarono ad alzarsi dai loro banchi e a scendere verso il secchio per bere. Il secchiello marcava ogni bevuta con un tintinnio quando lo si gettava indietro. La porta si apriva e si chiudeva, cigolando in continuazione, con un secondo di pausa tra l'apertura e la chiusura. Era vietato sputare sul pavimento, così i bambini uscivano e sputavano sul portico. Non avevano ancora imparato a usare il fazzoletto da tasca, quindi non passava che un secondo tra una sniffata e l'altra di tabacco. La missionaria giovane si irritava quando il rumore delle sniffate le arrivava all'orecchio. Quando la lezione iniziò, uscii per vedere il villaggio. Quando non mi vedevano, entrò la seconda volta permessa loro per sputare, i bambini cominciavano a dimenarsi, spostandosi dai banchi al secchio per bere, cercandomi. Una volta fuori, i loro piedini nudi non si fermavano finché non mi avevano raggiunta. Nell'aula vuota della scuola, gli occhi della missionaria giovane aspettavano l'anziana come il cane aspetta il segnale del pastore per lanciarsi. Per oggi è tutto, disse a bassa voce la donna più anziana, e i bambini tornarono a casa. Dopodiché io rimasi in silenzio a Toxis fino a quando la scuola non fu di nuovo aperta. Poi andai in paese, stando attenta a strisciare basso sotto le finestre quando passavo davanti alla scuola per non farmi vedere. Sulla punta, alle due estremità della baia, si accovacciava un gruppo di capanne grandi e tozze, fatte di spesse assi di cedro, sbozzate a mano e incastrate tra loro. Avevano facciate piatte e squadrate. Le pareti laterali erano fatte di legno di scarto. Per i tetti si usavano cortecce e scaglie fissate con pietre per non farle spostare dal vento. Le capanne erano separate e il vento rombava attraverso gli stretti spazi tra una e l'altra. Le case e le persone si somigliavano. Il vento, la pioggia, la foresta e il mare avevano fatto le stesse cose a entrambe ed entrambe erano cotte dal sole. All'inizio ero timida nei confronti degli indiani. Quando bussavo alle loro porte e non ricevevo risposta, entravo timidamente nelle loro case, ma scoprivo che all'interno mi aspettava sempre un grugnito di benvenuto e che gli indiani non bussavano prima di entrare. Di solito un'anziana era accovacciata sul pavimento di terra, intessendo una stuoia con fibre di cedro o brandelli di vecchie stoffe, con le dita simili ad artigli che si intrecciavano dentro e fuori, tra i fili fissati a un rozzo telaio di bastoni. I marmocchi rotolavano intorno a lei sul pavimento perché l'anziana si occupava di loro oltre che di fabbricare stuoie. Ciascuna delle capanne grandi ospitava diverse famiglie. La porta e il buco per il fumo erano comuni a tutte, ma ogni famiglia aveva il suo fuoco con le sue cose intorno. Quella era la loro casa. Gli interni delle case grandi erano poco luminosi. Il fumo infastidiva gli occhi e la gola. I pavimenti di terra non erano puliti. Gli indiani si divertivano a vedermi dispiegare il mio sgabello da campo e il mio sacco con i disegni schizzati li incuriosiva. Quando sul foglio apparivano barche, alberi, case, un chiacchiericcio interessato mi circondava, anche se non riuscivo a capire i loro discorsi. Un giorno, con un sorriso e un gesto, ottenni il permesso di ritrarre una vecchia fabbricante di stuoie. Lei annuì e io mi misi al lavoro. All'improvviso un gatto entrò dal buco del fumo e saltò giù da una trave su una pila di scatole pericolanti. Quando il rumore della caduta cessò, ci fu un ruggito bestiale, un mucchio di stuoie e coperte esplose verso l'alto e la testa di un uomo ne uscì. Gridò. I suoi occhi neri mi fissarono e il sorriso della vecchia si spense. Klatawa, vai! Mi gridò in Chinook e io scappai via. Più tardi la vecchia moglie mi chiamò attraverso la baia, ma io non risposi al suo appello. Perché? Non hai risposto quando la vecchia signora Wainuk ti ha chiamata? Chiese la missionaria. Beh, era arrabbiata e mi ha allontanata. Ah, stava chiamando Kliwik, torna, torna, quando l'ho sentita. Che cosa significa Kliwik? Non lo so. La porta della casa della missione si aprì cigolando e qualcosa che assomigliava a un fagotto di stracci bagnati si accasciò sul pavimento e gemette. Signora Wainok, esclamò la missionaria, pensavo che non sapesse camminare. La vecchia, stanca, si chinò in avanti e cominciò ad accarezzarmi la gonna. Cosa significa Kliwik, signora Wainok? Chiese la missionaria. La signora Wainok si mise i pollici agli angoli della bocca e li allungò verso l'alto, mi indicò, e ci fu un lungo e gutturale borbottio in Chinook tra lei e la missionaria. Alla fine questa disse: Kliwik è il nome che gli indiani ti hanno dato. Significa una che ride. L'anziana donna cercò di far credere alla missionaria che suo marito pensava che fossi stata io e non il gatto a rovesciare le scatole e a svegliarlo, ma la missionaria, fiutando una bugia, chiese di parlar chiaro. Poi la signora Wainok raccontò che i vecchi indiani pensavano che lo spirito di una persona rimanesse impigliato in una sua immagine, intrappolato lì, in modo che anche dopo la morte non potesse andarsene. Hanno idee così sciocche, disse la missionaria. Ditele che non farò più immagini degli anziani, risposi. Deve aver fatto molto male agli indiani vedere calpestate e strappate via da loro le cose in cui avevano sempre creduto. Nel profondo, tutti noi abbracciamo qualcosa. La grande foresta abbraccia il suo silenzio, il mare e l'aria abbracciano le grida degli uccelli marini, la foresta abbraccia solo il silenzio. I suoi uccelli e persino le sue bestie sono muti. Quando la notte scese su Ukluelet, gli indiani si ritirarono nelle loro case e dormirono. Nella casa della missione si accendevano le candele. Dopo aver mangiato il pesce e aver pregato ad alta voce, le missionarie salivano, scricchiolando le scale spoglie, ognuna portando il proprio candeliere di latta. Avevo una brandina ai piedi del loro ampio letto di legno e mi ci infilai velocemente. Senza luce e senza moquette era una camera da letto squallida anche in estate. Le missionarie piegarono i loro vestiti, allinearono le scarpe sotto al letto e indossarono le robuste camicie da notte. Poi, una per ogni lato del letto, si inginocchiarono sul pavimento scheggiato e pregarono ancora un po', questa volta in silenzio, in privato. Le crocchie, ora sciolte, penzolavano in lunghe trecce lungo la schiena e ogni testa china si stagliava contro una candela scoppiettante appoggiata su una cassetta di mele rovesciata. Una a ogni lato del letto, piena di libri devozionali. La stanza era mortalmente immobile. Fuori anche la foresta nera era immobile, ma con una vibrante immobilità tesa alla vita. Dal mio letto potevo guardare il pino balsamico un piano più in alto. Il pino svettava sui suoi simili, con la cima che si assottigliava verso il cielo come le mani delle missionarie in preghiera. Nel villaggio indiano, ogni giorno poteva essere domenica. A Toxis solo il settimo giorno era sabato. Allora le missionarie cambiavano le mutande e indossavano dei jabot di pizzo. Restavano a letto un'ora in più al mattino, raddoppiavano le dosi di caffè e le preghiere e svolgevano il servizio nella scuola che diveniva chiesa per un giorno. Così come i campanacci delle mucche si trasformavano per quel giorno nelle campane della chiesa. Le donne indiane, con i fazzoletti in testa, gli scialli a quadri intorno alle spalle e le larghe gonne che svolazzavano intorno alle gambe, camminavano tranquillamente verso la chiesa. Per loro era molto difficile riuscire a infilarsi nei banchi di scuola dei bambini. Occupavano due interi posti a testa e anche in quel caso dovevano stare scomode. Le donne sedevano da un lato e i pochissimi uomini che venivano dall'altro lato. Le missionarie insistevano che gli uomini venissero in chiesa indossando i pantaloni e che la camicia dovesse essere infilata dentro i pantaloni, e così loro se ne stavano alla larga. Bene, i peccati erano stati elencati e l'inno, che in genere era troppo alto o troppo basso, aveva finalmente trovato la giusta intonazione, quando la porta fu tirata violentemente all'indietro, rovesciando il secchio dell'acqua. Alla luce del sole si affacciò il vecchio Tanuk, con la coda della camicia che sventolava sulle gambe nude. Entrò, salì al centro della stanza e si sedette davanti. Rapidi gemiti d'orrore stravolsero il respiro delle donne. La missionaria anziana si aggrappò alla sua nota. La giovane saltò un'ottava. Una donna sul sedile posteriore si tolse lo scialle e da una mano all'altra questo passò sotto i banchi fino in cima alla sala, attraversò il corridoio e passò nella mano di Jimmy John, il nipote del vecchio Tanuk, seduto con gli uomini. Jimmy John si alzò dal suo posto e silenziosamente posò le scialle sulle ginocchia nude dello zio. Il discorso della missionaria continuò in un Chinook incerto, mentre con voce gentile Jimmy John diceva allo zio Tanuk, nel suo linguaggio nativo, cosa doveva fare. Gli occhi della missionaria giovane si spalancarono per l'indignazione. L'altra continuò a parlare. Scrollando con aria di sfida i suoi capelli selvaggi, il vecchio Tanuk si alzò, si avvolse lo scialle intorno alle gambe e si avviò lungo i corridoi. Si fermò davanti al secchio dell'acqua per bere rumorosamente, gettò via il bicchiere e uscì a passo di marcia. La funzione era finita, la gente se n'era andata, ma sul sedile in fondo sedeva ancora una figura con un abito stampato rosa e il suo viso era affondato sul petto. Stava aspettando che tutti se ne andassero prima di tornare a casa. È considerato più indecente per una donna indiana andare senza scialle che per un uomo indiano andare a gambe nude. Il gesto eroico della donna che aveva offerto il suo scialle aveva salvato la dignità del marito davanti alle missionarie, ma l'aveva fatta vergognare davanti alla sua gente. La missionaria anziana diede una pacca sulla spalla della donna mentre passava. «Vecchio disgustoso», mormorò la missionaria giovane. «Donna coraggiosa», disse la missionaria anziana, sorridendo. Un giorno ho camminato su una striscia di terra che non apparteneva né alla terra né al mare. Il mare la manteneva bagnata tanto da renderla inabitabile dalla foresta. Le radici degli alberi si rifiutavano di attecchire in quella densità salina. In quella terra di nessuno mi imbattei in un vecchio vestito con nient'altro che un corto camiciotto. Stava segando i rami di un albero caduto. Il fruscio del mare cercava di rubare il rumore della sega. Questo, dal canto suo, cercava di tornare ad appartenere alla foresta, ma la foresta lo rigettava al mare. Mare e foresta erano così impegnati in questo gioco a rimpiattino di rilanciarsi i rumori. L'albero caduto giaceva di traverso in questo luogo, nel nulla, e mi bloccava la strada. Mi sedetti accanto all'indiano che segava e parlammo a bassa voce, indicando il sole, il mare, le aquile nell'aria e i corvi sulla spiaggia. Annuendo e ridendo insieme, mi sono seduta e lui segava. Il vecchio segava come se avesse davanti a sé eoni di tempo, come se tutti gli anni che aveva alle spalle fossero stati piacevoli e quelli che aveva davanti lo sarebbero stati altrettanto. La schiena e le membra erano ancora forti, ma i denti erano tutti consumati fino alle gengive. I capelli che gli ricadevano sulle spalle erano brizzolati. La vita aveva addolcito il vecchio, il tempo lo aveva reso più rigoglioso, come le bacche alla fine della stagione delle fragole. Con un ultimo sorriso mi alzai e gli diedi una pacca sul braccio. Addio! Lui mi diede una pacca sulla mano. Quando mi vide voltarmi per attraversare la foresta, girando intorno al suo grande albero caduto, corse a fermarmi, scuotendo la testa e rimproverandomi. Suawa! Huyu! Suawa! Suawa era il puma. La foresta era piena di questi grandi felini. Gli indiani proibivano ai loro figli di andare nella foresta, perfino ai margini. Per loro io ero come una bambina, ignara delle cose selvagge che conoscevano così bene loro invece. In queste cose l'indiano poteva parlare con autorità ai bianchi. Nessuno disturbava i morti indiani. Il loro posto era un piccolo luogo semispianato, un po' lontano dal villaggio e ai margini della foresta. Quando un indiano o un'indiana morivano, non si perdeva tempo a portare via il corpo. Mentre la morte si avvicinava, veniva preparata una cassa. A volte, se ne possedevano una, uno si usava un tronco. Il corpo non giaceva dritto e stecchito nella cassa, veniva piegato e spesso veniva messo nella cassa prima che fosse davvero cadavere. Quando la vita era del tutto scomparsa, la cassa veniva chiusa. Si rompevano alcune tavole dalla parte laterale della casa e si portava via il corpo attraverso il buco che veniva poi riparato, in modo che lo spirito non ricordasse com'era uscito e non potesse tornare dalla porta a disturbare i vivi. La gente non si recava mai nel luogo dei morti, se non per trasportarvi un altro cadavere, e poi tornava indietro di corsa al villaggio emettendo terribili ululati di lutto. Un giorno andai nel luogo dei morti per disegnare. Era inquietante. All'inizio non sapevo se avrei potuto sopportarlo o meno. Le ossa giacevano in giro, ossa umane. I teschi che guardavano dalle cavità oculari spuntavano da sotto il rovo. Costole e femori giacevano tra le radici degli alberi dove le casse da morto si erano spaccate. Molte casse erano legate ai rami alti dei pini. I rami bassi venivano tagliati via per proteggerli dagli assalti degli animali. A volte una coperta veniva legata intorno alla cassa e sventolava al vento mentre l'albero la faceva oscillare. Lassù, all'aria aperta, il corpo si disintegrava rapidamente. Il sole e la pioggia facevano marcire le corde che legavano la cassa all'albero, le casse si spaccavano e le ossa rotolavano a terra dove il verde presto le nascondeva. Era bello come l'aria del mare e il sole si affrettassero ad aiutare i cadaveri a superare quell'orrore. Le povere e fragili casse non riuscivano a tenere lontani gli elementi e velocemente le ossa rimanevano bianche e pulite. A volte il popolo indiano usava le cavità dei cedri antichi come buche per le tombe, anche se la vita continuava a scorrere nell'involucro esterno del cedro. In uno di questi alberi cave gli indiani avevano recentemente seppellito una giovane donna. L'avevano messa dentro nel tronco. Sopra c'era una coperta scarlatta e su di essa erano sparsi perline e braccialetti. C'era una lampada di ottone e anche i suoi vestiti. Il sole entrava attraverso la spaccatura del lato dell'albero e scintillava sui suoi beni personali. Questa giovane donna morta giaceva proprio nel cuore vivo del cedro. Mentre stavo guardando, all'improvviso dei ramoscelli scricchiolarono, il legno di salice tremò dietro di me. Mi si seccò la gola e mi si bagnò la fronte, ma erano solo cani indiani. Alle spalle di Toxis, la foresta si arrampicava su una ripida collina e lì, nel bosco, c'era una tomba solitaria, quella del nostro unico indiano cristiano professante, dicevano le missionarie. Le quali lo avevano messo in una bara stretta e l'avevano trascinato su per il nuovo sentiero con grande difficoltà. Lo misero sottoterra, tra le radici degli alberi, lontano da tutta la sua gente, dalla pioggia, dal sole e dal vento che lui aveva amato e che avrebbero aiutato il suo corpo a disfarsi rapidamente nella polvere, rendendo la terra più ricca grazie al dono di quel corpo. Tanù. Jimmy aveva una buona barca. Lui e sua moglie Luisa accettarono di portarmi agli antichi villaggi di Tanù, Skedance e Kumshewa, sull'isola meridionale del gruppo Queen Charlotte. Dovevamo partire alle solite 8, tra virgolette, degli indiani e invece ci riducemmo al solito circa mezzogiorno, sempre tra virgolette. La missionaria mi aveva chiesto di portare con me la sua bella figlia. Attraversammo ogni tipo di acqua e arrivammo a Tanù in serata. L'aspetto era molto solenne via via che ci avvicinavamo. A poca distanza dalla terraferma, Jimmy spense il motore e gettò l'ancora in mare. Poi spinse la canoa fuori bordo e, imbarcando me e il mio cane da pastore, la spinse dolcemente tra i kelp. Lo scricchiolio della canoa sui ciottoli avvertì il silenzio che eravamo venuti a interromperlo. Il cane e io saltammo fuori e Jimmy e la canoa tornarono indietro a prendere le altre due donne. L'atmosfera era così immobile e solenne sulla spiaggia che sarebbe sembrato irriverente parlare ad alta voce. Era come se tutto stesse aspettando e trattenendo il respiro. Lo sentì anche il cane, che rimase con le orecchie tese tremando. Quando gli altri arrivarono, si mossero e parlarono, questa sensazione scomparve. Sul lato della spiaggia di Tanù si ergeva una grande scogliera, nera, ora che il sole era alle sue spalle. Si diceva che la scogliera fosse infestata. Ai suoi piedi c'era lo scheletro di una casa di cui rimanevano solo le grandi travi e i pali d'angolo e due pali totem, uno per ogni estremità. All'interno, dove vivevano gli abitanti, c'erano cespugli di sambuco, arbusti e alghe. In quella parte del villaggio non erano rimaste altre case, ma c'erano molti pali totem che spuntavano. Uno alto e sottile apparteneva alla nonna di Luisa. Su di esso era incisa una storia. Luisa ce la raccontò in modo un po' vago, come se l'avesse per metà dimenticata. Forse ne aveva dimenticata qualcuna, ma forse era la presenza della figlia della missionaria a farle dimenticare il resto. I missionari ridevano dei pali, dicevano che erano pagani. Alla base di questo palo totemico c'era una figura di uomo. Aveva un alto cappello composto da più sezioni ed era un cappello di grande onorevolezza. In cima al cappello era appollaiato un corvo. Piccole figure di uomini scolpiti si aggrappavano a ogni anello dell'onore lungo tutto il cappello. La storia, scolpita nel totem, raccontava che l'uomo aveva adottato un corvo come figlio. Il corvo si rivelò un malvagio imbroglione e portò un'inondazione sui suoi genitori adottivi. Quando le acque si alzarono, i nipoti e i parenti dell'uomo si arrampicarono sugli anelli del suo cappello dell'onore e si salvarono così dall'annegamento. Era un bel palo, sbiancato di ogni colore e poi rifiorito con una muffa giallo-verde. I sentimenti che Jimmy e Luisa provavano in questo vecchio villaggio della loro gente dovevano essere molto diversi dai nostri. Devono aver fatto sembrare puerili la mia curiosità e il ghigno della missionaria. Spesso Jimmy e Luisa si allontanavano da soli, mano nella mano, parlando nella loro lingua nativa. Una lingua di terra si protendeva nel mare da Tanù e divideva il villaggio in due parti. Le parti divergevano con un leggero angolo, cosicché il villaggio di Tanù si affacciava da una parte sulla parete sul mare. Oltre quel punto c'erano tre belle facciate di case. Un alto totem si ergeva contro ogni casa al centro della facciata. Quando Jimmy tagliò via la vegetazione intorno ai loro piedi, la vernice sui pali era abbastanza luminosa ancora. Non era ancora scolorita. La figura più bassa del palo centrale era una grande aquila. Le altre due erano castori, con denti immensi e tenevano in mano dei bastoni. Tutte e tre le figure di base avevano un foro scavato nel palo, cosicché le persone potessero entrare e uscire dalla casa attraverso il totem stesso. La nostra prima notte nella solenne Tanù è stata davvero molto strana. Quando vedemmo gli indiani che portavano la piccola canoa fino all'acqua, dicemmo: "Perché vai nella barca? Dormiremo là fuori. Hai intenzione di lasciarci soli a Tanù? Potete chiamare se qualcosa non va", ci dissero. Ma sapevamo che la barca era troppo lontana, oltre i banchi di alghe, perché potessero sentirci. La canoa scivolò via e poi non ci fu altro che un ampio spazio nero. Noi due ragazze rabbrividimmo. Io volevo che i lembi della tenda restassero aperti. Non mi sembrava così grave se potevo sentire gli alberi vicini, ma la signorina missionaria voleva che fossero ben chiusi per tenere tutto fuori. La mattina presto mi misi al lavoro e 2 ore dopo la signorina missionaria uscì dalla tenda. La barca giaceva al largo e non dava segni di vita. Gli indiani non scesero a terra. Si fece tardi e volevamo fare colazione. Chiamammo e chiamammo, ma non ci fu risposta. Ricorda cosa dicevano di quegli indiani che venivano asfissiati dai fumi del motore mentre dormivano? Eh sì, ci stavo pensando anch'io. Corremmo sulla punta il più possibile per avvicinarci alla barca e chiamammo entrambe. Dentro di noi c'era una sensazione orribile di cui nessuna delle due voleva parlare. Dopo molto tempo una testa nera spuntò sulla barca. Non dovete lasciarci di nuovo così da sole, abbiamo detto a Jimmy e Luisa. Gli indiani non facevano nulla per la signorina missionaria, le lasciavano raccogliere i giunchi per il suo letto e trasportare le cose. La casa della missione nel loro villaggio natale si trovava sulla collina e guardava gli indiani dall'alto in basso, ma qui eravamo tutti sullo stesso piano. Avevamo tutti la stessa pelle martoriata dalle zanzare e tutto in comune, e dipendevamo completamente dalle conoscenze e dalle abilità dei due nativi. Mi chiedevo spesso di cosa parlassero Luisa e la ragazza bianca mentre io ero lontana da loro a dipingere. A causa delle zanzare si legavano la testa con degli asciugamani e avevano un caldo spaventoso. Offrii alla signorina missionaria un po' di quella roba contro le zanzare di cui mi aveva parlato un minatore, grasso di pancetta, rancido e trementina. Lei rifiutò dicendo che avevo un aspetto orribile quando ne ero ricoperta, però lei era tutta piena di morsi. Se si passava la mano sul viso, la ritirava rossa del sangue che le maledette zanzare le avevano succhiato. Li incontrai mentre arrivavano sulla sabbia, Luisa che si affrettava a prendere la cena, la signorina missionaria che zoppicava dietro trascinandosi stanca. Lontano vidi Jimmy che trasportava sulla spalla qualcosa di spaventoso con lunghe braccia che strisciavano sulla sabbia e un grande corpo rotondo trafitto da un bastone. Abbiamo portato la signorina missionaria a caccia di pesci diavolo, ridacchiò Luisa passandomi accanto. Per cena abbiamo mangiato un po' di pesce diavolo fritto a pezzi come una salsiccia. Era dolce come il pollo, ma molto duro. La signorina missionaria mangiò pane e marmellata. Papà non vorrebbe che mangiassi il diavolo, ci ha detto. Mi disse che la caccia era uno spettacolo disgustoso. I pesci diavolo si trovavano nelle pozze intorno agli scogli durante la bassa marea. Quando vedevano arrivare le persone, lanciavano i loro tentacoli intorno agli scogli e infilavano la testa nelle fissure rocciose. L'unico modo per far loro mollare la presa era quello di colpirli in testa, quando si riusciva. L'ora di cena era passata da un pezzo. Luisa non poteva cucinare perché non c'era acqua nel nostro accampamento, ma quello era compito di Jimmy. La sorgente era nel bosco, nessuno tranne Jimmy sapeva dove. E lui era lontano in mare ad armeggiare sulla sua barca. Luisa chiamava e chiamava, Jimmy sentiva perché gli spuntava la testa dalla barca, ma non veniva. Ogni volta lei chiamava usando sempre le stesse due parole indiane. Fallo più caldo, Luisa, voglio tornare al lavoro. E anche lui ripeté le stesse due parole indiane. Queste parole sono imprecazioni? Chiese la figlia dei missionari. No, per imprecare dovrei usare parole inglesi. Perché? Perché non esistono imprecazioni nella nostra lingua. Cosa si dice se si è arrabbiati o si vuole insultare qualcuno? Beh, noi diciamo tuo padre o tua madre erano schiavi, ma io non potrei dirlo a Jimmy. Beh, di qualcosa di caldo, voglio la cena. E ripeté le stesse due parole, ma questa volta la sua voce era diversa e Jimmy arrivò. Finalmente le immagini di tutti i pali totemici erano nel mio zaino da disegno. Lo chiusi e dissi: Ecco fatto. La figlia del missionario si rianimò. Oh, posto orribile! Disse grattandosi ferocemente la caviglia. Lasciammo Tanù al silenzio e i totem a fissare il mare. Quando salimmo a bordo, la figlia dei missionari infilò goffamente il piede sulla mia tavola di cedro leggero, rovinandola. Non c'era niente di armonioso in lei, la sua vocina sciocca, il suo piede grosso e goffo, il suo viso rosa e bianco e le sue grosse mani rosse. Ero così arrabbiata per la mia tavola da disegno che guardai dall'altra parte dell'acqua per paura di prenderla a botte. La voce di Luisa nel mio orecchio disse: Non è goffa e non è stupida. Quasi subito ci trovammo in acque agitate. Jimmy stese una vela sul fondo della barca e noi donne ci sdraiammo tutte. Nessuno parlava, si sentivano solo i nostri gemiti. Quando la barca si inclinò, tutti i nostri corpi rotolarono da una parte, poi dall'altra. Sotto la vela, dove ero sdraiata, c'era qualcosa di molto viscido. Jimmy, cosa c'è sotto di me? Oh, solo i pesci diavolo che porteremo a casa alla mamma, le piacciono molto. Oh, mormorai, e il mal di mare sopra il pesce diavolo era troppo per me.